di Natalì. Sì, dai, rimango in ascolto, che sto cenando, che mi ho fatto l'insulina. Va bene, ok. Luca, ci sei? Una focaccia, già. Questo uomo è veramente la gara, che si dove va? Che vanno già non tutti i rari, non si vuole che si beggia nessuno, non penso. E nessuno è andato a casa sulla magna. Sì, devo stare in varia. Ma adesso, Luca, ce le metti lì il condimento? Adesso è bianca, così è. Bianca? E adesso aspetto che raffreddi un po' e l'apro e ci metto tutto il condimento e poi di nuovo in forno per fare croquette. Poi la mozzarella che ci metto, il filante? No, sono cipolline, maionese e prosciutto cotto. Niente, arrasa. Ah, Massimino. Buona, Ecco, Paolo, se giù mai si brucia, non è vista. Santo vostro. Appena sfornata, così calda, buona rete. Se no non è calda, romanzano, appena sfornata, tanti scelti. Beh, mi piace lo fumo buco, E la punta l'acidre. Allora, gente, cazzo. Allora, compresi. quindi, pensa che l'aria è compresa. Ah, brava tu. Ma non diciamo veramente aperti, per carità di Dio, andiamo a recuperare tutti i cedini a pesce, cazzo. A tutti lì, le quattro di vetro, giorno per giorno, qua, fama, la gente lamentosa di rimarsi, a tutti lì. Ah, poverina, ci sono rimesso sino a oggi, cazzo io, ma come si fa? Questo governo di merda, cazzo. Piano, già si recupera tutto. Purtroppo è così e boh, cosa devi fare? Se ne sono andato, non potevo sbagliare. Ancilia, va, lascia aperto. Lo sai che per me parlare con te di queste cose è come che parlo con uno di casa, quindi lascia aperto. Ma come arrivo io, se no, lei andando a fondo. Vabbè. Pazienza, cosa devi fare? Lo capisco, allora mi chiede voi, ma io non mi sei messo a casa, figurati, non so cosa vuol dire. Già lo so, ma anche voi cassa integrazione la batte o la cassa di debitano? No, vabbè, la cassa non c'è per niente con la cassa integrazione, tu basi quasi. Sì, ma la stessa cosa ti dico, che la luce ho pagata io nel bar, capito? E non ho portato niente loro a casa, nessuno di quattro. Purtroppo contro questa cosa non ci possiamo mettere qua. Adesso speriamo da lunedì che riprenda tutto più o meno alla normalità. L'unica cosa che secondo me ancora c'è di sbagliato è questa cosa di chiudere alle 6 di pomeriggio, cioè alle 18, no? Ma tanto una volta che dalle 10 alle 5, alle 6 del mattino non puoi più circolare, non fai chiudere alle 10 direttamente, no? A fine dopo le 5, alle 6, alle 7, uno può passare, bevi una birra, bevi una cosa al bar, no? No, che senso ha? Tanto poi tu chiudi alle 6, poi dalle 10 non puoi più uscire a casa, fai giorno alle 10 e boom, almeno la giornatina ce la fanno. Sono d'accordo con te. Si presume che il ristorante rimangano aperti sino a 10 le pizzerie, ma allora è da andarsi no? All'8 di sera, che alle 10 te ne da andare. Cioè, io quando andavo in pizzeria, tutto in greffa con mio fratello eccetera, prenotevamo per le 9, 9 e un quarto, e stavamo lì fino a mezzanotte, mezzanotte e mezza, capito? Quindi è assurda una cosa del genere. Il bar, tanto c'è il blocco, no? Il lockdown, così chiamato, dalle 10 sino alle 5 del mattino, allora fai lavorare sino per dire alle 9, ok, in modo che poi c'è il tempo per fare pulizia, alle 10 a casa. Ma non è inutile fare salvare ieri sera, non lavori così, non fai niente, soprattutto al fine settimana. È un casino qua purtroppo. Ma qua mi devo staccare un secondino, che devo pulirla, questa stufa che voglio accendere, che c'è lo freddo qua. Devo accendere e fare pulirla. Là. Ah, infatti Massimiliano, non c'è problema, già sono qua. Oh, qua ci sei? Sì, già sono qua. Qua va, sto scendendo giù. C'è Daniela da sola, va, con loro. Ah, no, ma ci vediamo, tranquillo, intanto io sto guardando la partita, sono qua, se entra qualcuno, se no tanto fra un po' devo andare col cane io. Saluto a tutti, già ci aggiorniamo su WhatsApp dopo. Va bene, dai, saluto tutti quelli che ci sono in ascolto. Ciao, dopo. Ciao, ciao, ciao, sì. E chi è? Io sto provando un microfono. Com'è la modulazione a tu? È strana, Strana, no? Microfono normale, aspetta col processore. Ecco qua, adesso meglio mi ascolti. Sì. Vabbè, questi sono da usare senza il processore, capito? No, stavo provando se funziona, capito? Siccome è di un VHF della Kenwood e c'è il tono a 1750, capito? C'è il ciccalino mi. Ma il ciccalino va. Cosa si vende la telegrafia? E io la gioco qua ancora. CQCQ. Va bene, aspetta lo stacco, vai. Capa. Ma comunque non va male, ti dico, Cosa tu? Che non va male, la verità. No, è il capito della Kenwood, non è uguale al tuo, È nero, piatto, e cioè, vabbè, da un app e poi c'è il tono 1750. Però è bello, un bel microfono. Sempre della Kenwood. Siccome io non ne ho altri, allora devo spedirle questo, capito? Lo stavo provando se funzionava. Cavolo, se funziona, funziona anche bene. È molto bello, È più bello di sui dell'MC43. Ti faccio la foto, te lo mando, molto bello. Scappa. È bello sì, cavolo. Si sente bene pure. Ma questi come li fanno? Con capsule ceramiche questi originali? Sì, c'è il condensatore dentro, ho fatto bene quel microfono, anche questo, fatti bene. Ehi, aspetta. No, non è che me ne intendo molto, quindi stavo chiedendo. Hola. Guarda che te l'ho mandato, guarda che bello che è. Ehi, Alabaidu. Molto bello. C'è il tono, dove c'è quella scritta 1750, lì c'è il pulsantino, c'è il tono, capito? È molto più bello di quell'altro, di quello grigio. Oh, tutti i cosi appiccavano che si cosi, Sì, c'è l'anello questo, è normale. Sai che funziona a burro? Funziona burro, cioè chi si normale, perché la picchi da un lato funziona davvero matesse. Sì, vabbè, questi sono così, ci hanno l'anello per appenderlo. KK, va bene, dai, l'ho provato, così lo metto dentro la busta, se non mi dimentico, sto preparando tutta la roba che devo spedirla, se no poi mi dimentico che metto il 60. KK, prepara. Oppure ti voglio mandare un microfono che... Voglio vedere di che cosa ne pensi. No. Mica te l'ho mandato me. E dimmi cosa ne pensi. Un po' complicato, mi pare, Antonio. Aspetta, dimmelo in via messaggio. Un secondo, Antonio, ti rispondo subito. Eia. Cari. Beato. Chi è? Avanti. Chi sei? Cosa sei? Ma Torino? Sì, col mezzo normale. Capa. Questo bip. Il bip l'ho sempre avuto. È diverso dalle altre volte. Perché non lo metto mai. Capa. Forse una volta ho sentito. E adesso come va. Bene. Lo stavo, lo metto. No, lo metto quasi mai, lo pipero, non mi piace. Vai, figlia, vai. Vai, bricicchetta. Vai, berinvella, vai, lo metto, lo già metti. Qui c'è un bimbo, una tavola, figlia. Senti queste ragazze, mica. Esiste. Vai, figlia, ho già gacci. Gacci, sto facendo gacci, ti faccio dire il bimbo. Cosa gacci? Ascolta. Sono giù che baracchino e mi gioco a vedere in questo momento. Come c'è il bip di verso al mio? Cos'è? Deve essere un duino. Stesso io che sono da un OM di Cagliari l'ho comprato, poi se lui l'ha modificato non lo so. E che verso il bip? Comunque non ci credo. Vabbè, quello il bip di verso quel bip. Io quello che ho avuto io il Galaxy no, non ce l'aveva quel bip. Sì, vabbè, io faccio 45 anni di radio, non ricevo il dubbio. Cioè io il bip li riconosco, quindi quello non è il bip del Galaxy. Ok, non dico che bip è, comunque già lo so che la radio stai usando. È il bip del Galaxy. Non è il bip del Galaxy. Basta scommettere. Io ti posso fare anche un video in questo momento, guarda. No, non ho modificato. C'ho un video del bip di un cobra, cosa da giovedì? Non lo so, io non lo sento il bip comunque. So che c'è, non c'è il bip, leccomi. Hola, hola, hola, hola, hola. Ecco, lecco. Non dobra pure a letto, guarda che attacchi il pane che tu hai, non dobra, il buon elenco è uguale. Claudio, a me mi viene fumato un pittone, penso un po' non dobra. Vabbè, tu così stai dicendo, va bene così, io rimango sempre nella mia. Avanti, no, sto prendendo questo caffettino che devo darlo a Luca, che è un adattatore, per l'SM20. E devo darlo a lui, lo sto pulendo. Lui vabbè, ce lo farà lui col termostato perché io non ne ho. Guarda qua, adesso sto facendo la registrazione, ho schiacciato il microfono e sto usando Galaxy. Vedi? Adesso ti mando un video, così sei tranquilla, ok? Non è che ti sto chiedendo niente, perché hai fatto quel video uguale al Cobra. GLX200 che io ho usato, la conoscevo va bene, proprio uguale, preciso identico il bip, non cambia niente, capite? Per quello che l'ho detto. Vabbè, il mio diverso il bip, il mio originale è un 6 bande il mio, eh? Il tuo 5 bande è il Galaxy. Parte da là e finisce con la F 6 bande. 6 bande, l'originale 5 bande, anche il mio 6 bande. Il bip io mi comodo, te lo faccio sentire diverso. No, ma in dubbio che va. Ah, che io ce l'ho avuto con un altro bip, quello pip, pip. No, sta caricando, mentre sto mandando il video. Poco segnale qua, che ormai già carica lo stesso piano piano. Ah, ce l'hai la wifi? Ce l'hai il wifi? Niente che ce l'ho. Scappa. Come mai non spinge tanto in quella zona? Qua dentro la camera funziona di più, qua di meno, capito? Ah, ho capito. Dice che vendono con gli affari che trasportano il segnale. Ma a me va bene così, non è che devo fare chissà che cosa. Cappa, già va piano piano. Un po' di minuto, qualche minuto ho registrato. Vado con Claudio, così, sia microfono che barattino, e sto usando il Galaxy. Certo. Sicuramente è stato modificato, sicuramente. Perché il suo originale è diverso. Niente di strano, che l'hanno modificato, io non lo so. L'ho preso da noi medicati, un ragazzo che poi Stefano ha conosciuto a casa, gli ha fatto la posta e dice io ho venduto un Galaxy sotto un ecco a Tonino Calosa che è Sassari. E Stefano ha detto quanto è piccolo il mondo, fare un carico amico mio. Vedi che il mio è diverso al beat. Cosa vuol dire, cammin? Questo è il mio. E boh, sembrava smorzato, boh. E perché mi è stanco, capito? È grande, è da fare pensione tra poco. È smorzato, mi non è, sembra chiuso, boh. Vabbè. Ma cioè, va bene così, boh. Vabbè, dai, c'è problema. Mi stai usando quello, vuol dire così. Mi sto sbagliando io, ma si assomiglia al bip del Cobra. Va bene, K di Rogero. Ma io non vedo perché dovrei mentire su una cosa. È così, e non mi piace dire bugie, sto usando il Galaxy. E basta, ti ho inviato un messaggio. Guarda un po'. Apri l'occhio. Ehi, ehi, adesso lo guardo. Oh, per carità, Tolino. Ti ho letto perché. Il bip è quello, è uguale, capito? È quello che ho letto. Va bene, va bene. No, mi sto preparando la roba, il microfono, il capo, tutta la roba che lunedì devo spedire. Ho venduto anche l'altro 140, quindi lo devo preparare. Sì. tipo il mio del 550, ci assomiglia un po'. L'hai visto qua? Sì, lo sto guardando. Non le dico bugie, forse le dicevo quando ero ragazzino. Le dicevo alla buona anima ai miei genitori, però così mi a questa età cosa dico, bugie, no, non posso dire una cosa per un'altra. Non mi piace, non è da me, non è il mio vocabolario dire una cosa per un'altra. Saluto il tutto, ho il corpo al vento, ma c'ho il Galaxy, tutto qua. No, no, beh, è smorzato comunque, non è come questo, senti, questo è molto pieno, come il 3009, si sente bello, io non lo sento il mio, qui non posso dire niente. Si è smorzato, cioè è smorzato, non è forte, mi. E forse anche adesso lo tolgo perché non è che mi piace più di tanto per un bip. No, io lo lascio perché così vedono che sto usando un baracchino, capito? Perché le mie modulazioni già lo c'è, non li cambiamo sai. E allora è meglio sempre che tenga il bip. Ecco. Antonio delle Bande Nere. Eia! Avanti. Ah sì, no, anche io quando ce l'avevo faceva bip, bip, tipo l'87, che fa così, bip, uguale. E quello lì vuol dire o l'hanno modificato, sicuramente. Per me l'ho messo le mani alla gola, l'ho strozzato. Preparatevi, già rivendere un momento, ma domani all'Ibeccio è acqua, domani lui e povere macchine, ma sono contento almeno mio genere non lavora, ragazzi. Ma è loro che c'ho un po' di acqua qua, e da me che voleva zia me. Ma è acqua sporca, Tony, perché era tutto il giorno scirocco, oggi ha caricato, adesso sta girando all'Ibeccio e da stanotte inizia a scaricare acqua sporca. E pazienza, vuol dire che mi dovrò lavare la macchina. Andò bene, e io vabbè, peccato, avrei lasciato il cane in furia, mi avevo detto. Tutta l'antenna mi imbrutta. No, non stendete roba bianca, se no davvero mi è un casino. No, io la roba è sotto la veranda, anzi l'ho già lavata, quindi c'è un punto dove non mi perdi acqua la tettoia. Ma al limite quando c'è molta pioggia io se dovessi lavare, stendino dentro casa, condizionatore per cagare dentro la pulsa. Si conferma, è così. Sì, me l'ho detto che domani è brutto. Più bello, ho capito. Tutta l'antenna di giabbia mi buoni da voi. No, è tutta la settimana così. Da domani, se no mi sembra mercoledì o giovedì, una cosa del genere. Pioggia, pioggia, pioggia. E già la giuvisco io. Oh, là. Via. Guarda questo, se ti interessa questo messaggio che ti sto mandando. Aspetta che me lo guardo. Un'offerta di San Valentino. Cazzo, ho già tornato là. Cazzo che forte. Sembra con la pubblicità del Cinarca. Ma poi mette, se vogliamo un tavolino, metto la via. Con la pulizia, la gandria. Toga, super toga. Poi, con giro panoramico. Cazzo ci fai dare come te, c'è un taurino e il gandria a fora. E non c'è lungo l'Antonio, se già avrò andato Antonio. Se tu sei lo mandaglielo. A me che devo andare Antonio. Capa. Ehi, già te la mando pure io una cosa bella. Guarda, fai pure i suoi Antonio. Ah, tanto vai, se ti vuoi fare un giro in paglietta, vai da dire. Ti mosi, tu e Sara, con la birretta, e lì che devo fare un giro. Sì, l'ho messa io su Facebook stamattina. Ah, tu l'hai messa? Eia! A me me l'ha mandato Gianna da Roma. Io l'ho messa su Facebook stamattina. Boh, io l'ho messa da Gianna. Una donna di 70 anni che abita a Roma, ti fa simpaticona, sono 2 anni che messaggio con lì. E quindi mi manda un sacco di queste vignette strane, poi quando mi manda la bicicletta mi subisce le dita. E già va bene, si parte per le vacanze. Break? Avanti break. Buonasera a tutti, dai, Gianni doppio lungo. Ora, ciao Gianni, che si può usare i vostri? Adesso già sito. Ah, questo qua è il Galax. Yes. Cos'è questo? Il Galax, si ha detto. I Galaxy? Ma è 3009 a me. Ciao Gianni, buonasera. Questo è il Galaxy, ciao. E vabbè. niente. Comunque, è tutto bene, ciò che finisce bene. E perché quanto è successo? C'era il filo interno dove tu attacchi il PL che si era staccato. No, vabbè, non commenti già. Va bene così. Potevi anche usare il telefono comunque. Avanti, Tony. Non c'è niente da commentare, Gianni, va bene, non c'è problema. Avanti, Anto. Capa. Che è successo? Il filo. Niente, Anto, non è successo niente. Non ne voglio nemmeno parlare, perché sono stato tutta la sera, mi ha preso tutta la mattina. Vabbè, sono cose che possono succedere. Non so, però io pensavo che fosse il finale, invece era un filo staccato e basta. Meglio così, sono contentissimo. Andare, tutto bene ciò che finisce bene. Ma su che canale sei, Tony? Sul dischi 27075. Ti risulta, sì? Gianni? No, io sono qua e sto ascoltando, guardando anche la partita, gli ultimi passaggi. Gianni. Sì, avevo toccato 100 kHz, aspetta, sono lì che ero sul 9 mi stavo già preoccupando. Dai, tranquillo. No, comunque siamo lì. Guarda che ti mando una bella cosa già, al telefono. Ehi. Oh già. Dimmi, Tony. Come si chiama il cane tuo? Non so, no. Tyson. Ehi, Tyson. Guarda, un bel bacione col musotto. Ce l'ho dietro. Oh, anche a Di Massimo con un carruzzo. Un attimo, c'è gatto da Tony. No, a me quando mi vede mi scominciano tutto e mi vuole bene, lui lo toccano. La prima volta che mi ha visto ho fatto le feste. A me piacciono i cani, pure anch'io sento l'odore. Lui sa già, i cani hanno un intuito che praticamente sono già con una persona che ama i cani oppure le urie, capito? No, beh, anche a me no. Anche quello di Gianni già. Già mi conosce. A me piacciono tutti i cani. Qua c'è anche l'alano, c'era, adesso è morto, poveraccio. C'è l'arlecchino, quello grande, bianco e nero, poi c'era quell'altro tutto nero. Io mi sono avvicinato, accarezzato, faceva solo spavento a guardarlo, comunque. Stavo al freddo, l'ho visto perché un cane aveva un bestione così. Quando si alzava mi metteva addosso, era qua, c'è me, icca e pietà. Bene, a me piacciono tutti i cani. Un attimo che mi da spostare perché ho messo sul fuoco la carne con l'osso per il cane. Vediamo se è quasi pronta così gliela do. Nada freddo giustamente. Un attimino di bianco. Ah va, che contento che mangiami. Contento che mangia. Se tu non rimani niente, ma sai cosa tu trovi il cane? Non gli manca mai niente a mangiare. Crocchelle e cereali. Quando faccio la pasta gliela do le ossa con. Sono stasera a recuperare un po' di macelleria. Contento che magna, chi tu magna sempre magna? Tecca, Fufi! Lui, tutto gonfio! Tutto gonfio, buonasera a tutti E buonasera anche a lei! Ciao a tutti, ciao Claudio, ciao Gianni, ciao Torino, vai a te, già! Dai, io rimango in quel Rix che sto finendo a guardare la partita e poi me ne scompo col cane, dai! Buon fine serata a tutti, ciao! Ciao Claudio, buon Rix, sembra la partita! Dai, mi stacco un attimo, rimango in quel Rix, dai! E poi ritorno Antonio! No, io mi sto spostando che c'è la carne sul fuoco, il nostro cane. Adesso è cotta, un attimino di bianco. Ripeta tu con Gianni. Cappa! Già ci sei? Gianni! Emanuele, tu sei? Franco! Vabbè, non rispondi più nessuno in oggi! Ora! Già! Avanti già! Gianni! Dimmi! Cappa, avanti! Se puoi fare una cosa, secondo me! Qua c'è un bel saturo! Prova adesso, guarda, 1, 2, 3, se sono saturo è perché sono vicino! Cappa, sei un pochettino saturo, sì. Prova a vedere il segnale che lo guarda, aspetta, prova. Guarda, adesso non sarò più saturo, guarda a vedere così, come esco. Bene, ma adesso sì, normale. Adesso ci sono dato un'uscita a 5 watt, però se voglio uscire con più watt devo alzarlo, ok, dai. Arturo, ci sentiamo che sto facendo roba, devo portare giù il cane, magari ci sentiamo un altro momento, sono un po'... mamma mia, sono assillato stasera. Ok, dai, stai tranquillo. Sei saturo qua però. Vabbè, non fa niente, dai. Ci sentiamo, buonasera. Ciao, ciao. Kappa, kappa. Ti ho mandato una cosa, cra. Allora mi dici, graziato. Cosa, tu? Ti ho mandato una cosa, ti ho mandato. Allora mi dici, graziato. No, guarda, tanto che mi sto preparando, che anch'io devo portare il cane. Lo sto guardando l'ultimo... gli ultimi minuti della partita. E via. Avanti, chi è? Vai, ci sentiamo dopo, dai. Porta il cane. Ehi, ehi, a tu. Ciao, ciao. Ehi, a. Avanti, chi è? Oh, buonasera Gianni Capri 2. Benissimo, già. Ok, ok Gianni, non c'è problema. Kappa, buonasera anche a te. Come ti arrivo lì a Muros? Kappa, ma tu sei con pochi watt? Kappa, tu sei Santiago 5, sei. Arrivi bene a Sassari, è la verità. Kappa, devi aspettare, ma lo sei a valvole, devi aspettare che scalda la valvola, se no, no non esce. Kappa, ma stai cominciando a alzarsi il vento, hai notato? Ribeccio, scirocco assieme, raffiche, un bel forte sono qua in alto, ciao Kappa. No, domani piove, è forte pure. Domenica, lunedì, quasi tutta la settimana c'è pioggia, capito? Va bene, riprendi Anto, dai. Ma la rottura di Cattori, oiuia. Proprio ambassava da pioggia che ha fatto. Che pioggia ha fatto? È una settimana, erano 10 giorni che non piove. Già va bene, dai, l'acqua già ci vuole, però questo vento è sempre quello che danneggia più di tutti. Va bene, dai. Ok, avanti, chiodo. Poi passaggi, poi io spengo e vado a cenare, dai. Santiago 8, Radio 5, io sono 95 da te, vero? Kappa, kappa, no, adesso, cavolo, adesso sì, bello. C'è bello forte qua, cavolo. Kappa. Ma è cosa, la radio degli anni 70 quella, no? Ho capito. Sicuramente. Una di quelle che ho visto io su Facebook, quella lì, Oh, Claudio. Non c'è. Kappa. No, deve andare sempre con quei watt, deve andare. Non puoi andare di più perché non va bene. Tu gli dai quei watt e lui è perfetto. E c'era grande. Ma tutti gli amplificatori sono così, Cioè anche qui si inizia da quella valvola e a quello a transistor. Se gli dai più di tanto non va bene. Ti mandi saturazione. Mi avete chiamato? Sì, cra. C'è roba al forno, mi sono dovuto allontanare un secondo. Eia. Comunque, cra, ti dico una cosa, la prima volta che è stata una ricezione da paura. Ma qual è quella tua? Sì, questa qua. Funziona bene, io già c'ho l'esperienza, ma questo Galaxy mi attizia sempre di più. C'è una bellissima ricezione, una bella trasmissione, esce veramente molto molto bene. Avanti Claudio. Il calore che sta dissipando col freddo che c'è in quella stanza. Kappa, sì. Anche io già ti ricevo benissimo qua. Soprattutto che io sono più lontano da te, sono più lontano per quella zona. Però mi arrivi bene, dai, alla fin fine. Non ho difficoltà né a parlare io né a parlare tu. Ciao Pagappa, yeah, vabbè, tenere robuste ci vogliono sul tetto, non c'è niente da fare. Inutile che la gente parli, la Mantova è Mantova e non ha avversari, punto e basta, non si discute. Capito? Raffiche di vento che tirano qua, tu non hai neanche idea di quelle che tirano a muro, scrappi. Ma forti mi, anche perché io sono alto e aperto, non c'ho niente, arrivano le raffiche da tutte le parti. E la Mantova è sempre lì, ferma, tranquilla, serena, non mi ha mai creato problemi. Capo bello grosso e via. E impianto fatto a regola d'arte, tutto qua. Altro non ti posso dire. Le altre antenne sono buone, funzionano per carità. Tutte le antenne funzionano, però a me quando mi parlano di Mantova, io mi tolgo il cappello. Tutto l'altro è noia. Vai Anto. È vero, ci sono Mantova ancora sul tetto da 30 anni fa. Catapeghista di lungometro, la Gunnoccio B di 20 anni, piazzata a regola d'arte, di uno che non stiamo più modulando adesso. Cavolo, con un tubo solo, non si è mai spezzata, è sempre lì, quattro radiali come era, è sempre lì. Ma poi ne ho visto anche tante, ci avranno più di 30 anni, sono sempre sul tetto. Tu li accendi, gli attacchi il PL e vanno come il primo giorno che tu l'hai piazzata. Guarda, se tu vai via Mesta, dove abitate Antonio Re 20, quella l'ho piazzata io e Marco 131. Quindi guarda com'è ancora. Antonio manca 20 anni da quella zona, è 20 anni che abita le punti. Ed è sempre quello, è un tubo fatto in due, capito? Non è telescopico, è fatto telescopico. Capito? Ed è ancora lì l'antenna, non ho perso mai il radiale, non ho perso mai niente, è sempre lì l'antenna. Quindi è così e boh, non si discute, la Mantova è Mantova e tutto il resto è noia. Avanti Claudio. Boh, non so, ma io adesso ci ho montato questa Ringo, ho visto che ha fatto quelle raffiche di vento forti, me ha piegato, ha fatto, ancora in Chivi non gli ha fatto nulla, spero che vada bene, vada, cioè, è stata tanto criticata, però ha fatto quei venti forti pure, cazzo che qua, tocca maledizione, perché soprattutto abbiamo quel passaggio che c'è qua vicino al grattacielo lì, proprio quando fa vento qua è micidiale lo stesso, non è in alto però picchia, ma ho visto che è sempre lì, vuol dire che sta resistendo. Scusate, dai, che io chiudo, abbasso il volume, lascio tutto acceso, sentiamo dopo Anto. Vado a cenare, ciao Claudio, saluto a casa, ciao Antonio e ciao a tutti quelli che ascoltano, bye bye, vai Cla. Recapa, ciao Cla, ci sentiamo. Hai te una raffica di vento, una mazza che ti faria. Suga, stanotte e picchia, mi aspettare un po'. Il vento di terra è micidiale, quello, lo scirocco e cosa, quello fa un bel di danni, combina. Una volta un gazebo fissato bene a terra e tutto l'ha scoperchiato, ce l'ha tirato in aria. Ma non penso che succeda adesso, non penso proprio. Quella è durata sicuramente quando prende acqua che si indebolisce e si spezza, ma adesso che è nuova non lo fa. 1-1 è buono, ma no, questa rimane a 1-1 e basta. Quando piove si alza un pochettino, se rimane, si rimane a 1-1. E questo è 0 perché c'è l'accordato reinserito, quindi non ce n'è stazionaria. Questo già ce l'ha ed è a 0. Ma che accordatore era della ZG? Ma cari dai. Un carattere buono non si deve sciogliere assolutamente, non si deve sciogliere mai. Guardate, sta gira c'è il tempo che trova, a meno che non ti prendi la KP1000, qualcosa di un pochettino più robusto, ma quelli fatti così non servono, se li fanno i bug, se li fanno pagare, ma no, non sono un granché. Perché non so, perché così fa. Ma voi, che mi ricordo male, anche che voodoo ci avevate? Capa. Come si dice? Ma già sono belli anche con le radio, è la verità. Ciao ciao, ci sentiamo alle prossime, ciao ciao, gappa gappa.